a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ultima puntata per quest'estate 2016 di A Regola d'Arte, poi torneremo in settembre. Un saluto a tutti da Francesco Galante. Abbiamo con noi al telefono Carlo Silvestrin, presidente della funzione aziendale promozione ed export dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova, per capire come sta andando l'export veneto e anche soprattutto di Padova, anche in virtù poi dell'evento importante della Brexit, dell'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna. Quindi un saluto a Carlo Silvestrin, ben trovato. Buongiorno a voi. Lei è il presidente della funzione aziendale promozione ed export dell'UPA di Padova. Che cosa fate esattamente? Beh, diciamo che la nostra attività in generale dovrebbe essere quella di cercare di portare all'attenzione del pubblico consumatore, inteso come privati ma anche come imprese che acquistano i nostri prodotti, il manufatto del Veneto, del padovano in particolare, per cui ci attiviamo, stiamo cercando di creare delle situazioni per poter implementare quello che potrebbe essere il fatturato dei nostri associati, questo utilizzando diversi strumenti. Abbiamo puntato molto dall'inizio di questo mandato alla digitalizzazione, perché siamo assolutamente convinti che è assolutamente importante agganciarsi al treno della modernità, per cui se il mercato interno è stagnante dobbiamo cercare di agganciare un mercato internazionale, e questo passa necessariamente attraverso il web, per cui insegnare ai nostri associati che essere nel mondo globale vuol dire anche essere competenti per quello che riguarda la promozione attraverso i sistemi digitali. Necessariamente questo poi si aggancia ad un discorso di internazionalizzazione, perché chiaramente dobbiamo anche puntare al fatto che, visto che il Made in Italy è considerato all'estero come un'eccellenza, dobbiamo farlo sapere che esistiamo, dobbiamo far sapere che cosa facciamo, la qualità dei nostri prodotti, e dobbiamo cercare di proporre i nostri prodotti nel miglior modo possibile. Certo, come in una pasticceria uno vuole vedere i dolci in vetrina, quando si cerca di vendere all'estero bisogna avere almeno un sito web che sia funzionale e soprattutto anche, penso, in più lingue, no? Beh, diciamo che sostanzialmente il problema di fondo è che, come sempre, si parte cercando di arrangiarsi, e questo purtroppo è una mentalità che va superata. Sono finiti i tempi in cui l'artigiano era la persona che a testa bassa lavorava, più ore di lavoro faceva più riusciva a guadagnare. Questo è un retaggio purtroppo del passato. Noi dobbiamo considerare che oggi la qualità va abbinata alla competenza, e per competenza intendo anche competenza commerciale. Conseguentemente è chiaro che se noi ci affidiamo alla rete, ci troviamo in un mondo di competitor estremamente preparati, e di conseguenza dobbiamo essere anche noi all'altezza di questi competitor. Voglio dire, è inutile trovare l'amico, il nipote, il figlio ormai maggiorenne, sì, che ci fa il piccolo sito perché così ci siamo, non serve a nulla. Anzi, paradossalmente, in quella maniera noi perdiamo potenziali clienti, perché chiaramente l'utilizzatore del web apre diverse finestre. Se ci vede poco preparati, se ci vede poco professionali, se ci vede poco all'altezza, difficilmente insiste nella ricerca all'interno del nostro sito. È una cosa che è difficile da far digerire a chi ha sempre lavorato con le proprie mani e con le proprie idee. Bisogna in tutte le maniere cercare di capire che le competenze vanno valorizzate, per cui se si decide di entrare, e secondo me è fondamentale farlo, nel mercato globale del mondo rappresentato dal web, bisogna affidarsi a dei professionisti. Noi abbiamo proposto per questo una serie di incontri con i nostri associati, proprio per far parlare con loro alcuni esperti di Google che davano un'idea generale di questo concetto, spiegando che cos'è un sito, come ci si può muovere nel mondo del web, che cosa vuol dire utilizzare un e-commerce, e proprio spingendo sul fatto che il fondamentale è che il nostro biglietto da visita sia assolutamente all'altezza. Non possiamo presentarci oggi con un pezzetto di carta di formaggio con scritto il nostro numero di telefono. Noi oggi dobbiamo presentare un biglietto da visita nel quale diciamo chi siamo e cosa siamo capaci di fare. Siamo delle eccellenze, dobbiamo esserlo anche nel momento in cui ci presentiamo, soprattutto nel momento in cui ci presentiamo. Certo, e una volta preparato il sito web, uno poi ha tutta la parte organizzativa di spedizioni e quant'altro. Assolutamente, anche questo è vero, per cui dobbiamo fare un passo alla volta. Innanzitutto il sito web serve per far sapere al mondo che esistiamo. Nel momento in cui decidiamo di fare un passo in più, dobbiamo cominciare a considerare quella che è la piattaforma della vendita online. Anche qui, se vogliamo fare da soli, probabilmente stiamo già perdendo tempo e buttando i nostri soldi. Oggi ci sono aziende altamente specializzate che sono in grado di gestire il, diciamo, la startup di un'impresa che vuole entrare nelle vendite online. Ce ne sono diverse, tutte molto preparate. Chiaramente dipende dai fatturati che si affrontano, o meglio che si prevedono. All'inizio io consiglio sempre di partire appoggiandosi a qualcuno che ha competenza in merito, per poi decidere eventualmente di creare una propria azienda interna. È un'azienda nell'azienda, perché organizzare, come giustamente sottolineava lei, le spedizioni, ma soprattutto essere preparati per quello che riguarda tutta la contrattualistica internazionale, per quello che riguarda tutti gli eventuali dazi o tasse imposte da paesi, per esempio al di fuori dell'Unione Europea, non è cosa semplicissima, per cui arrivare lì vuol dire essere già profondamente addentro al settore delle vendite online, cosa non assolutamente impossibile, per carità, però che chiaramente prevede un passaggio e soprattutto un passaggio mentale. Passi importanti questi che bisogna ovviamente conoscere, quindi Lupa in questo può dare una mano importante. Certamente, noi come promozione ed export, d'accordo con la Presidenza, abbiamo deciso di promuovere anche un questionario. Proprio in questi giorni abbiamo mandato a tutti i nostri associati un semplicissimo questionario nel quale cominciamo a capire chi sono le persone che vogliono rivolgersi all'estero tra i nostri associati, chi sono quelli che già lo fanno, in che mercati operano. Per coloro che non sono ancora arrivati al grande passo, chiediamo quali potrebbero essere dal loro punto di vista le esigenze che sentono più impellenti, in modo tale da poter programmare di concerto con quelle che possono essere le strutture alle quali noi facciamo affidamento, cito per esempio la Promex della Camera di Commercio, per cercare veramente di essere loro partner e mettere in onda tutte quelle situazioni che potrebbero effettivamente aiutare i nostri associati. Voglio dire, andare da soli da un avvocato per cominciare a parlare di che cosa vuol dire stilare un contratto, preparare per esempio un documento che va inserito nell'e-commerce per dare tutte le garanzie all'utilizzatore, rivolgersi alla propria banca per analizzare tutti quelli che possono essere i sistemi di pagamento che possono essere associati, capire qual è la banca che ti permette di avere a tariffe migliori le spese reali che poi tu vai a sostenere nel momento in cui vendi un prodotto. Faccio un esempio banalissimo. Nel web si può comprare di tutto al giorno d'oggi, sì, da un panfilo ad un cioccolatino. È chiaro che poi tutto deve essere relazionato al fatto che quando io vendo il cioccolatino devo calcolare a priori cosa mi costa consegnare il cioccolatino all'utilizzatore finale, perché se io poi alla fine mi trovo che il mio guadagno l'ho speso in commercializzazione, probabilmente non ho fatto un grossissimo affare. Ora, per arrivare a questo rimaniamo tutti abbastanza perplessi quando sentiamo le promozioni che ci vengono fatte dalla televisione, piuttosto anche che degli stessi siti web dove a costo zero ci consegnano un determinato prodotto che ha un costo molto basso di partenza e di conseguenza è estremamente concorrenziale sul mercato. Sì, ma come fanno quando io, approcciandomi ad un sistema di commercializzazione online, mi sento dire dalla banca mi devi dare 400 euro perché io ti metto in piedi il sistema di e-commerce, mi devi dare una percentuale su tutti gli incassi, mi devi dare questo, parlo con chi fa le spedizioni, devi avere una confezione rigida di questo tipo, devi pagarmi questo per ogni spedizione, come fa questa gente a costo zero a consegnarmi questo prodotto? Ci sono dei sistemi, bisogna conoscerli, ecco perché dico all'inizio bisogna partire affidandosi a delle competenze, delle aziende che fanno questo di mestiere. Dopodiché, se si sviluppa un grosso fatturato, ci si arriva a capire e a mettere in piedi quello che può essere il sistema personale di distribuzione e di incasso. Arrivare qui però non ci si arriva da soli, nessuno arriva a laurearsi partendo da zero senza mai aver visto una scuola, un professore o una struttura. Lupa ha questa funzione, dovrebbe essere colei la quale mette insieme tutte le esigenze degli associati per cercare di trovare le migliori vie per aiutarli a crescere. Ci fermiamo per un po' di musica e torniamo subito. Mio cuore d'artista idealista, cuore di ragazza ribelle che va a caccia di sballo ancora, di sete non morire, che l'acqua da venire, se non è adesso e stasera e domani, qualcosa da cambiare qui. Il cuore è rivelato, l'istinto non ha mai sbagliato, sono felice, rido, corro, scappo, che mi sembra di aver volato. No, no, io dico di no, io no, rispondo di no. A questo mondo se lavori e ti dai come un pazzo, lo so, stai fedele come un cane, intanto a quelli là non gliene frega un cazzo di te, ma il cuore è sollevato, l'istinto non si è mai sbagliato, e c'è qualcuno che ti illude di notte con le parole, poi di giorno ti fotte, ma se il cuore l'ha capito, il cane avrà abbaiato. Se l'ha capito, aspetti sue notizie, guardi l'ora e la giornata non ti passa mai, ma vi sembra ben fatto, è solo un incubo eterno, scaraventarvi giù dal letto per cercarvi fino in fondo all'inferno. No, no, io dico di no. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Stiamo parlando oggi di export, grazie alle parole di Carlo Silvestrin, presidente della funzione aziendale promozione ed export dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Ancora ben trovato. Interessante veramente quello che diceva poco fa, il fatto che bisogna affidarsi a qualcuno che ha le competenze per aiutare le piccole aziende artigiane a portare e a vendere i prodotti all'estero. C'è stato qualche giorno fa questa notizia che ha scosso tutta l'Europa, economicamente parlando, partendo dalle borse, e poi via via anche ci saranno delle conseguenze nel mercato dell'export con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Che cosa ne pensa di questo? Beh, io ho avuto modo di parlare di questo con un suo collega qualche giorno fa, relativamente proprio all'ipotesi di uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Chiaramente la situazione non si prospetta favorevole per tutto il mercato europeo. È chiaro che noi che a Padova rappresentiamo il 4,8% dell'export provinciale proprio in direzione Inghilterra, per meglio dire Gran Bretagna, dobbiamo guardare con estrema attenzione a questi dati. L'uscita non sarà una cosa immediata, si discute se ci sarà effettivamente questa uscita. Sono notizie proprio di questi giorni, sentivo un'intervista alla televisione dove chiaramente viene detto ormai è stata fatta una scelta, bisogna uscire. Dall'altro lato della barricata sentiamo la Scozia che non vuole uscire, addirittura situazioni paradossali dove il sindaco di Londra dice ma noi non volendo uscire, avendo dimostrato che come città di Londra, come municipalità di Londra non volevamo uscire, chiediamo di poter rimanere all'interno dell'Unione Europea. È uno scenario ancora estremamente mobile, per cui chiaramente oggi fare delle analisi è folle. Sentiamo il nostro primo ministro che dice i nostri risparmiatori sono tutelati, dall'altra parte sentiamo che le borse scendono con percentuali folli, i soldi che perde la borsa sono alla fine soldi dei nostri risparmiatori, chiamiamoli risparmiatori, chiamiamoli investitori, di fatto sono soldi che sono stati messi lì per cercare di dare una garanzia per il nostro futuro, per cui è chiaro che siamo tutti estremamente preoccupati. È chiaro anche che l'artigiano di per sé stesso può fare ben poco per contrastare una situazione di questo genere. La volontà del popolo inglese è stata espressa, è stata sbagliata la scelta, i tempi, i modi, non è questo che noi possiamo valutare. Noi dobbiamo, come sempre, cercare di contenere le perdite, come si suol dire, far fronte comune è fondamentale, per cui tutte le azioni che vari organismi preposti alla tutela di quella che è la nostra economia metteranno in campo saranno sicuramente i benvenuti. Notizia anche questa recentissima, l'autorizzazione all'utilizzo di fondi speciali per poter contenere le eventuali perdite delle banche italiane. Sono tutti bei correttivi che però di fatto non permettono di vedere orizzonti rosei. Ci sono notizie che l'economia sta riprendendo, noi siamo tutti molto ottimisti, altrimenti non faremo questo tipo di lavoro. L'artigiano per definizione è un ottimista, perché altrimenti non farebbe questo tipo di scelta di vita. Dobbiamo cercare di mantenere alta la nostra professionalità, aprirci ai mercati internazionali, produrre sempre meglio e soprattutto cercare di far capire che quello che noi produciamo è unico e irripetibile, è un prodotto unico e irripetibile, è fatto dalle mani, dalla sapienza, dall'intelligenza, dalla mente di un uomo e viene poi prodotto con la massima competenza possibile. Questa è la nostra eccellenza, non potremo mai competere sulle grandissime quantità, sui grandissimi numeri, noi artigiani non abbiamo questo tipo di funzione, noi dobbiamo lavorare sulla qualità. Questo è il nostro compito. Ecco, una domanda così che mi nasce, qual è il prodotto che si vende meglio all'estero, artigianale evidentemente? Beh, è difficile dirlo, se noi analizziamo l'estero in generale sicuramente abbiamo dei prodotti dell'eccellenza italiana che sono considerati universalmente il top, parlo del food, cioè di quello che è il nostro cibo, noi consideriamo che abbiamo una varietà di prodotti tipici regionali, provinciali e addirittura locali che sono invidiati da tutto il mondo. Abbiamo poi tutto quello che riguarda il settore moda, per cui partiamo dall'abbigliamento, passando per la calzatura, per le borse, per tutto quello che è il settore legato al comparto della moda. Siamo qui nel Veneto per esempio molto forti per quello che riguarda in termini di esportazione, per quello che riguarda per esempio la tecnologia medicale, abbiamo un numero molto alto di aziende che creano dei prodotti che hanno dei macchinari, delle attrezzature che hanno una grande appeal proprio per l'alto contenuto tecnologico e l'alta competenza nella realizzazione, a livello mondiale sono effettivamente molto richiesti. Ce ne sono moltissimi effettivamente di prodotti del Made in Italy che vengono riconosciuti come eccellenza, è difficile veramente fare una classifica. Ho capito, per esempio io mi ricordavo le scarpe della Riviera del Brenta, no? Per esempio, certo. È ancora così o c'è stato un crollo? Penso a tutto il mercato cinese di importazione. Beh, diciamo che stiamo parlando di due prodotti completamente diversi. Allora, sicuramente è un settore che, come tutti peraltro, ha sofferto, ma è un settore anche che continua ad innovarsi, continua a presentare nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi design. I prodotti cinesi di importazione ai quali lei fa giustamente riferimento vanno a colpire una fascia di clientela molto bassa, cioè il prodotto cinese non è assolutamente un prodotto concorrenziale per quello che riguarda le calzature della Riviera del Brenta. È chiaro che, come dicevano i nostri vecchi, anche una pompa che distribuisce l'acqua dà fastidio di fronte ad un'osteria, per cui è chiaro che quando entriamo negli outlet e troviamo un paio di scarpe 10, 15, 20 euro, facciamo fatica a capire come può essere che vendano questo tipo di prodotto. Sicuramente c'è la possibilità di farlo, non c'è mai limite al peggio, di conseguenza quando noi scendiamo di qualità possiamo andare all'infinito, ma non è questo il nostro mercato. Noi puntiamo al mercato di qualità, al mercato di eccellenza. I nostri prodotti sono tutti fatti seguendo le normative europee per quello che riguarda la qualità e la certificazione. Chiaramente abbiamo dei costi del lavoro che sono alti, molto più alti di quelli che hanno probabilmente altri paesi, e di conseguenza abbiamo dei costi poi di prodotto finito che sono decisamente superiori. Però ricordiamoci anche che il mercato globale guarda a queste differenziazioni. Il cinese che acquista un prodotto di qualità vuole il prodotto made in Italy, non compra il prodotto made in China, esporta il prodotto made in China ma non lo acquista. Allora, per i grandi mercati, per i grandi numeri, per carità, ci sono sicuramente delle situazioni concorrenziali. Noi dobbiamo puntare alla qualità. In Italia siamo meno di 60 milioni di persone, non possiamo sicuramente pensare di produrre tutte le scarpe che vengono utilizzate al mondo. Noi produciamo quelle di qualità, alle altre ci penserà qualcun altro. Va bene, è stata veramente una bella intervista che ci ha aperto un po' il mondo dell'export. Grazie a Carlo Silvestrin, presidente della funzione aziendale promozione ed export dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Grazie a voi. E allora vi ricordo che l'Unione Artigiani di Padova sta facendo proprio un questionario per aiutare le aziende che vogliono esportare all'estero. La compilazione del questionario è semplice e rapida, potete chiedere informazioni presso l'UPA di Padova. Con questo terminiamo l'appuntamento di A Regola d'Arte, ci fermiamo per un paio di mesi giusto per fare un po' di ferie e a settembre torniamo ancora insieme. Un saluto a tutti da Francesco Galante. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Spot. Estate, chi apre e chi chiude? Farmacia Zilli, via Guizza 200 a Padova. Telefono 049 68 4355. Farmacia Zilli, aperta tutto luglio e agosto. Chiuso sabato pomeriggio e domenica. www.farmaciazilli.it. Ottica Sartori, in via Romea 72 a Legnaro. Puoi trovare sempre una soluzione ai tuoi problemi visivi. Telefono 049 6415 33. Chiuso dal 24 al 31 luglio. www.